Gianni, cosa sogni? Mi capita di sognare di essere legato, cioè di avere un'amaca, di essere sdraiato, e questa amaca è Legato o legata a sdraiato, che sono due categorie diverse del piacere. Sdraiato, ecco. sdraiato su questa amaca che è legata a due palme, Sì. e di fianco ci sono due persone che non si riesce a capire se sono maschi o femmine, Io e su questo. con delle palme mi fanno aria. Sì. E di tanto in tanto arriva un'onda del mare che Con va delle palme. sotto, no? Arriva Sventolano delle un'onda. palme che sono persone alle sue spalle. Sì, mi fanno Lei aria le di vede qua. chiaramente che sono delle palme. Sì, di fianco. Ma se di Una fianco come davanti. fa a vedere? Cioè vede proprio le foglie o sente semplicemente degli arbusti agitarsi alle sue No, spalle? vedo proprio il ramo Vede dei rami alle sue spalle che si della agitano. palma, sì, con una vicino ai piedi e una vicino alla testa. Poi ogni tanto un'onda va a sbattere contro uno scoglio che si Sì. trova a 7-8 metri dai miei piedi, dove sono lì a dondolare, e l'onda, infrangendosi, forma tante bollicine che mi si infilano nei peli delle gambe e delle braccia, formando tante perline. Sembra la réclame di un bagnoschiuma. E allora queste persone vorrebbero toccarmi e dico: no, no, non toccarmi perché sennò le Eh perline sì, perché con quei randelli in mano è chiaro che possono creare qualche problema.